Hong Kong, il maglio di Pechino, il futuro della democrazia. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Hong Kong's government has disqualified 4 opposition politicians. 19 opposition politicians had earlier threatened a mass resignation if any of them were barred from the Legislative Council. I'm not going to give you a question. You are fake news. I hear a sound of victory. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatori, gentili ascoltatrici. Questo è Nessun Luogo Lontano, il vostro sguardo quotidiano al di fuori dei confini italiani. Con me ci sono sempre Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in regia c'è Roberta Frisani. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, i social, siamo su Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, siamo su Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Nella puntata di quest'oggi, qual è il livello di resilienza di un regime sottoposto a una dura repressione e in alcuni casi pressione? E fino a dove può spingersi un regime autoritario nel piegare le istanze di una popolazione in nome di un'ideologia che da decenni lo guida? Nel braccio di ferro tra Pechino e Hong Kong c'è un gigante e c'è un fuscello, c'è una potenza mondiale e una strana, vitale, ricca, ibrida realtà frutto di una recente storia coloniale e di un futuro già scritto che però a molti non piace. Il 2047 è l'anno del non ritorno per Hong Kong, che entrerà nel definitivo abbraccio della Cina. Qualcuno non lo vuole, altri lo vogliono così fortemente da mettere in crisi la reputazione internazionale della Cina nel breve periodo e forse anche nel medio. Ma è sbagliato pensare a una lotta Hong Kong contro Pechino, perché la stessa elite economico-finanziaria di Hong Kong è pro Pechino e rema proprio in questo senso. E allora, come andrà a finire? Per ora il fronte democratico si è dimesso in massa dopo la sospensione voluta da Pechino di 4 membri per intralcio al lavoro del mini parlamento, del Legislative Council. Oggi a Nessun Luogo in esclusiva ci sediamo tra gli scranni proprio del Legislative Council, naturalmente solo per poco, ben inteso, perché come vi ho detto il fronte democratico si è dimesso in massa poche ore fa. Questo è il tema della puntata di quest'oggi. 349-238-6666 per voi, noi intanto sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci porta nuovamente in Nagorno-Karabakh dopo gli ampi approfondimenti che abbiamo dedicato nelle ultime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Gli aggiornamenti dal fronte arrivano, secondo fonti russe, in particolare dal generale Sergei Rutskoi. Dice che il cessate il fuoco ottenuto grazie alla mediazione di Mosca sta reggendo, e sta reggendo grazie anche al dispiegamento di forze di Mosca. I militari russi realizzeranno 16 posti di osservazione per garantire il rispetto di questa tregua. Il generale ha aggiunto che oltre 400 soldati, 8 elicotteri, 20 aerei e 50 mezzi militari sono stati dispiegati nelle ultime 24 ore lungo la linea del fronte e il corridoio che congiunge il Nagorno-Karabakh con l'Armenia, quel corridoio che dovrebbe permettere a eventuali ulteriori profughi di raggiungere l'Armenia. Il numero degli effettivi russi dovrebbe raggiungere nei prossimi giorni le 2000 unità. Mentre tutto questo avviene si fa sentire anche, forse in maniera tardiva, la diplomazia a giochi praticamente fatti. Si è fatto sentire Emmanuel Macron, che ha chiesto una soluzione politica duratura. Si è fatto sentire l'Iran, che si augura che il cessate il fuoco porti a una pace sostenibile. Si è fatto sentire il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha avuto un colloquio telefonico con Vladimir Putin e dove si è, secondo le fonti turche e russe, si è auspicato che questa cooperazione bilaterale prosegui nel tempo. Forse bisognerebbe aggiungere qualche punto di domanda, visti i precedenti, per esempio, nel teatro siriano. Poi una notizia particolarmente inquietante e drammatica arriva dall'Arabia Saudita, da Jeddah in particolare. Ne danno notizia le fonti diplomatiche francesi. Questa mattina alcune persone sono rimaste ferite in un attentato dinamitardo che è avvenuto nel cimitero non musulmano, appunto, della grande città saudita. Secondo le fonti e secondo indiscrezioni, l'obiettivo dell'attentato era il console francese a Jeddah, Mustafa Miraj. Il diplomatico era sul posto per partecipare a una cerimonia che andava a commemorare la vittoria nella prima guerra mondiale. Secondo alcune fonti di stampa saudite, un uomo avrebbe gettato una granata all'interno del cimitero, ma per ora non sono noti ulteriori dettagli, il che aggiunge ulteriore tensione. Se fosse confermata la natura dell'attacco terroristica, se fosse confermato il possibile target, l'ambasciatore francese in Arabia Saudita apre ulteriori problemi e grattacapi alla posizione francese un po' in tutto il mondo, con quella guerra all'Islam, sto sintetizzando e banalizzando, perdonatemi, che il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato oramai qualche settimana fa. E a proposito, poche ore prima di questo attacco dinamitardo si teneva un mini vertice europeo in videoconferenza, voluto fortemente da Emmanuel Macron, un mini vertice che è il preludio a un più ampio vertice europeo che si terrà venerdì con anche i ministri degli interni dei vari paesi, in cui si è discusso di lotta al terrorismo. È evidente che per l'agenda politica francese questa è una delle priorità, assieme alla lotta al Covid. Emmanuel Macron ha detto che il terrorismo è un problema europeo, ci vuole una risposta rapida e coordinata. Il tutto, ovviamente, i lavori sono partiti dagli ultimi attentati sia in Francia che in Austria. Si è fatta sentire anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto che l'Unione europea prevede di rafforzare le sue regole volte a combattere l'estremismo online. E ne abbiamo parlato spesso e a lungo qui a Nessun Luogo Lontano, al di là di quella che è l'organizzazione fisica di questi commando, di questi cosiddetti lupi solitari, come abbiamo potuto testimoniarvi in prima persona con le nostre ricerche sui social. Ci si muove molto sui social, parlo dei gruppi jihadisti evidentemente, o anche di semplici simpatizzanti, e quindi è evidente che un maggior monitoraggio di ciò che avviene in rete è fondamentale per la sicurezza del continente. E poi negli Stati Uniti, perché mentre si attendono quelle che saranno le prossime mosse legali di Donald Trump, si sono fatte sentire due voci molto importanti. La prima è Mike Pompeo, segretario di Stato, il quale è stato il primo sostanzialmente peso massimo a ammettere che vi sarà una transizione. Sapete che Donald Trump si è trincerato assolutamente dietro un muro, non intende concedere la vittoria a Biden. Sul fronte repubblicano praticamente tutti danno ragione a Trump. C'è stato qualche ex politico, oramai una volta erano calibri importanti, da Bush a McCain, che si sono schierati, diciamo, per una transizione a tutti gli effetti pacifica, per così dire, però i repubblicani fanno fronte. Dicevo, cosa ha detto Mike Pompeo? Ci sarà una transizione calma verso una seconda amministrazione Trump, siamo pronti. I giornalisti lo incalzavano evidentemente su questo tema. Dobbiamo contare ogni voto legale e assicurarci che le preferenze non espresse legalmente non vengano conteggiate. Da parte sua si è fatto sentire anche Joe Biden, che ha detto è imbarazzante il comportamento del presidente Donald Trump. Ha detto: come posso dirlo con toni appropriati? Ecco, credo che la condotta di Trump non aiuti l'eredità che il presidente si lascia alle spalle. Il processo di transizione è ben avviato e niente lo fermerà. Naturalmente il tutto aspetta che cosa? Beh, sostanzialmente che vengano avviati quei ricorsi, che in alcuni stati si terminano i riconteggi dei voti, e forse tra qualche settimana si scriverà la parola fine a questa caotica pagina di storia recente americana. E poi ancora un po' di notizie e di aggiornamenti che arrivano dall'Etiopia e sono drammatiche. Vi abbiamo dato conto di quella che è l'offensiva federale di Addis Abeba nella regione del Tigray. Fino a 200.000 rifugiati potrebbero riversarsi in Sudan in fuga dal conflitto. Questa è la preoccupazione che arriva proprio da Khartoum. Già ieri vi davamo notizie anche di diserzioni di soldati dell'esercito federale che sarebbero scappati, sarebbero finiti in Sudan assieme ad alcuni profughi. C'è un'intervista molto interessante, la riporta l'agenzia Dire, che inquadra meglio il comportamento del premier etiope Abiy Ahmed. Lo ricordiamo, un anno fa premio Nobel per la pace, quello che ha stretto finalmente dopo decenni i rapporti con i nemici dell'Eritrea. Ebbene, l'agenzia Dire intervista un esperto politologo etiope, Awol Allo, che è professore associato alla Keele University nel Regno Unito, scrive fra gli altri anche per Al Jazeera. Sostanzialmente la lettura di tutto ciò è che Abiy Ahmed sta cercando di imporre un sistema fortemente centralizzato a dispetto delle differenze regionali che caratterizzano l'Etiopia, e differenze anche etniche, aggiungeremmo noi. In più c'è un aspetto fondamentale: perché l'esercito federale non sta riuscendo a sfondare definitivamente nel Tigray. Intanto, primo, non lo sappiamo perché non c'è accesso ai giornalisti internazionali né locali, quella regione è sostanzialmente blindata, ma dalle poche voci e sussurri che arrivano dal Tigray sembra che l'esercito stia riscontrando resistenze e difficoltà. Beh, perché quella zona che era fortemente coinvolta dal conflitto con l'Eritrea è stata pesantemente armata e si è dotata quindi di un esercito degno di questo nome, proprio per fronteggiare il nemico storico. Ecco, questo è il motivo per cui il governo centrale di Addis Abeba fa così fatica a far piegare la testa a quello che era proprio il baluardo della prima linea dell'Etiopia stessa. E poi velocemente il capitolo Covid-19, perché arriva un appello, mentre si rincorrono le voci di vaccini russi più efficaci di quello della Pfizer e mentre tutto il mondo trepidante aspetta l'ultimazione della fase 3 e finalmente il vaccino, la Federazione Internazionale di Croce Rossa fa un appello ai governi dell'Unione Europea e lo fa con la voce di Emanuele Capobianco, responsabile di sanità e salute proprio della federazione. Sentite. L'Europa sta vivendo un momento estremamente difficile, più di 300.000 persone sono morte di Covid nel continente e nell'ultima settimana il continente ha registrato più della metà delle nuove infezioni che sono riportate a livello globale. In questo momento i lockdown che sono messi in atto attraverso l'Europa sono necessari ma estremamente difficili per le persone costrette in casa e ne vedremo i risultati nelle prossime settimane quando il numero dei casi diminuirà. È un momento difficile in cui la Croce Rossa sta cercando di portare aiuto alle famiglie in quarantena, aiuto psicologico, aiuto proprio di sostentamento con cibo e altro. Oggi noi della Croce Rossa abbiamo anche emesso un comunicato stampa per chiedere ai governi europei di investire in misura maggiore nel sistema di testaggio, nel sistema di tracciamento dei contatti e nel supporto per le persone in isolamento e quarantena. Questo perché se i lockdown funzionano per abbassare il numero totale dei casi, è davvero il sistema di testaggio, di tracciamento dei contatti e di isolamento che poi chiude un'epidemia e dobbiamo migliorare questo sistema attraverso l'Europa, perché quando saremo al di fuori di questa seconda ondata noi possiamo proteggerci da quella che potrebbero essere una terza o una quarta ondata, e quindi investire in questo con le risorse che ci sono nel paese, con le risorse addizionali che gruppi di volontariato come la Croce Rossa possono portare è fondamentale. Noi siamo veramente impegnati nel testaggio in Italia, ma come in Olanda o in Francia, in stazioni, coinvolgendo molto dei nostri volontari, e così per il tracciamento dei contatti e così nel supporto all'isolamento e alla quarantena, che rimangono assolutamente una priorità. Questo è il punto e l'appello che arriva dalla Federazione Internazionale di Croce Rossa, che come immaginate ha uno sguardo globale su ciò che sta avvenendo nel mondo a proposito della pandemia. Adesso però, con la nostra usuale copertina, andiamo a Hong Kong. Se guardiamo tutti questi ombrelli, è un'esplosione di colori. È come un enorme arcobaleno mobile. È una folla pacifica. Perché avete bisogno di usare il gas lacrimogeno? La bandiera rossa cinese è stata capovolta come segno di sfida da parte di Hong Kong. Dopo le proteste del 2019, il governo cinese mostra di non avere più pazienza. Probabilmente in futuro non vedremo più così tante persone nelle strade, non perché saremo soddisfatti del governo, ma perché ora viviamo nel terrore. Tutti i parlamentari di Hong Kong, pro-democrazia, hanno deciso di dare le dimissioni in segno di solidarietà verso i quattro colleghi accusati di promuovere l'indipendenza e che per questo sono stati espulsi. Together we stand! Together we stand! Hong Kong and oil! Hong Kong and oil! In questa copertina firmata da Valentina Ternullo e Roberta Frisani abbiamo provato a ricapitolare gli ultimi mesi. In realtà dovremmo fare un salto addirittura nel passato, un salto di anni, 2014, la rivoluzione degli ombrelli che Antonio Tale, il nostro Antonio Tale, ha seguito anche da vicino fino agli ultimi più concitati mesi in cui la piazza richiedeva a gran voce una serie di istanze che proveremo a ricapitolare. E poi complice il Covid-19, il distanziamento, la nuova legge sulla sicurezza voluta da Pechino e poi dal governo di Hong Kong ha sostanzialmente fatto piazza pulita, perdonate il gioco di parole, e quello che erano le istanze delle strade di Hong Kong sostanzialmente si sono svuotate. Cosa è accaduto però ultimamente? Qualcosa di estremamente importante e nevralgico per l'intera Hong Kong, che quattro parlamentari del Legislative Council, perdonatemi, che è sostanzialmente il mini parlamento di Hong Kong, sono stati sospesi perché intralciavano i lavori parlamentari. Questo in omaggio alla nuova legge sulla sicurezza. Ecco, in tutta risposta i 15 membri del Fronte Democratico si sono dimessi in massa, svuotando praticamente il mini parlamento di quell'anima pan-democratica. Buongiorno e ben ritrovato da questa parte del vetro Antonio Taglia di Nessun Luogo. Antonio, buongiorno. Buongiorno Giampaolo e a tutti gli ascoltatori. Allora, hai passato la giornata attaccato al telefono e di questo naturalmente ti ringraziamo, e sei riuscito a raggiungere, io direi in esclusiva totale, perché sono stati sospesi e gli altri si sono dimessi nel giro di poche ore. Possiamo darvi la voce appunto di questi protagonisti di questa convulsissima giornata politica hongkongese. Partiamo con il primo che è raggiunto, Antonio Taglia, Alvin Yeung, avvocato, parlamentare del Civic Party, appunto il fronte pandemocratico, che è uno dei quattro parlamentari sospesi da Pechino. L'accusa: ha usato tecniche di ostruzionismo parlamentare, qualcosa che per noi è, come dire, assolutamente normale, rituale, anzi insomma ci siamo parecchio abituati. Sentite. Il fatto che Pechino oggi abbia deciso di espellere quattro parlamentari del fronte pandemocratico conferma una volta per tutte che l'impalcatura politica di Hong Kong, che si regge sul principio un paese, due sistemi, è sottoposta a un ulteriore attacco. La Basic Law, che è la mini costituzione di Hong Kong, stabiliva che il Consiglio legislativo, ossia il mini Parlamento, sarebbe stato uno dei tre poteri della città, insieme al ramo esecutivo e alla magistratura, ad assolvere i doveri costituzionali. Ma adesso che Pechino ha deciso di rimuovere questi parlamentari, tra cui il sottoscritto, sta calpestando ulteriormente l'autonomia di Hong Kong e sta prendendo il controllo della città direttamente nelle proprie mani. Tutto questo manca di rispetto al volere della gente di Hong Kong e ignora le critiche che arrivano a Pechino sia da Hong Kong sia dal resto del mondo. La voce di Alvin Yeung, uno dei parlamentari, dei quattro parlamentari sospesi da Hong Kong, appunto. Tra pochissimo vi facciamo sentire anche la voce di un altro, Kenneth Leung, però prima la voce di Antonio Taglia per capire intanto se, Antonio, ti aspettavi questa sospensione di quattro parlamentari e che significato ha, e poi in secondo luogo se ti aspettavi la dimissione in massa, perché è un gesto molto molto forte che però avremo tempo di discuterne, forse in qualche modo mette in condizione il fronte pan-democratico di mettersi in autoisolamento, si mettono in un angolo perché fuori dal Legislative Council poi non hanno più armi forse a disposizione. Partiamo dalla tua sorpresa nel leggere queste ultime notizie di cronaca, Antonio Taglia. Certo, allora la sospensione, che poi di fatto è un'espulsione dei quattro parlamentari, era nell'area da tempo. Se ne parlava sui media hongkongesi già da molti giorni. La questione è che tutta la decisione è stata presa a Pechino. Sostanzialmente i parlamentari della maggioranza pro Pechino del Legislative Council hanno segnalato questi comportamenti da filibustering, da ostruzionismo a Pechino, e la commissione permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo ha deciso per l'espulsione. È una decisione forte? Sì. È una decisione in attesa? Non completamente, c'erano dei precedenti. In qualche modo si tratta di Pechino che estende al massimo la portata della nuova legge sulla sicurezza nazionale approvata nel giugno scorso e la porta alle estreme conseguenze. State ascoltando la voce di Antonio Taglia, insomma, per chi non se lo ricordasse, non ricordasse la sua voce, è in redazione qui in squadra Nessun Luogo Lontano e ha una lunga e approfondita conoscenza non soltanto di Hong Kong ma anche di Pechino. Vi ha fatto il corrispondente per lunghi 7 anni. È lui che ha raggiunto fra gli altri anche Kenneth Leung, uno dei 4 parlamentari espulsi da Pechino, come avete sentito ufficialmente sospesi, ma in realtà questi difficilmente faranno rientro nel mini parlamento di Hong Kong. A lui un giudizio, anche se volete emotivo, su come ci si sente dopo l'espulsione e quali saranno gli effetti. Sentite Kenneth Leung. Credo che questo sia un attacco diretto al concetto di un paese, due sistemi. Questa decisione non ha alcuna base legale e per questo credo che sia un giorno triste per l'intera città di Hong Kong e per la democrazia parlamentare. L'intero fronte democratico ha deciso di dimettersi domani, dato che con l'espulsione di 4 parlamentari avremmo avuto poca capacità decisionale nel Legislative Council. Le dimissioni in massa sono un forte messaggio rivolto alla popolazione di Hong Kong per mostrare come ora il Legislative Council non potrà operare nel pieno della sua legittimità. Questo è un segnale importante per la città di Hong Kong. La voce di Kenneth Leung, uno dei 4 parlamentari espulsi da Pechino, ci spiega l'importanza del segnale, le dimissioni di massa. Vi anticipo che tra pochissimo sentirete anche la voce del leader del fronte pandemocratico che apre scenari molto molto interessanti. I temi sul tavolo sono tantissimi, uno in particolare ci arriva segnalato in maniera, devo dire, anche particolarmente icastica da un ascoltatore al 349-238-6666 ed è il Manfredo da Firenze che ci scrive spesso: non vorrei che dimettendosi il parlamentare di Hong Kong si rivelasse un errore come il ritiro sull'Aventino delle forze antifasciste. La situazione è ben diversa tra Hong Kong e Cina, dice, però ho trovato questa analogia ed è proprio questo uno dei punti che toccheremo fra gli altri con il nostro Antonio Taglia, perché vi ricordate quando alcuni paesi, tra cui Canada, Gran Bretagna, Australia, avevano dato l'ok alla dissidenza, a quei giovani nati entro una certa data potevano richiedere il doppio passaporto e trasferirsi all'estero, proprio quei giovani che animavano la protesta di Hong Kong. Ecco, una dissidenza che trasloca all'estero, evidentemente una dissidenza con le armi spuntate, un mini parlamento che si svuota della sua testa d'ariete, il fronte pandemocratico, e un parlamento che non contesterà più evidentemente le scelte di Carrie Lam e di conseguenza di Pechino. Quindi quanto sarà efficace questa lotta? E segnatevi questi due hashtag se volete: breve termine, lungo termine, perché sul lungo termine c'è qualcuno che vince e non è Hong Kong. Intanto andiamo a sentire le borse e poi apriamo la lunga seconda pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovate, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. In questa seconda pagina di Nessun luogo è lontano proviamo a proseguire nell'analisi, nella radiografia di ciò che è avvenuto nelle concitate ultime ore nell'ex colonia britannica di Hong Kong. Prima la sospensione, leggi, espulsione a vita di 4 membri democratici del Legislative Council, il mini parlamento dell'ex colonia, e poi per reazione il fronte pandemocratico, 15 deputati che si dimette in massa e lancia un segnale molto forte evidentemente a Carrie Lam e di rimbalzo anche a Pechino. Tra poco andiamo tra le pieghe di questa fotografia che ha tante zone d'ombra che proveremo a illuminare in primis con Antonio Taglia ma anche con le voci che ha raccolto direttamente da Hong Kong e che facciamo sentire qui in esclusiva a Nessun Luogo Lontano. Intanto faccio ammenda per un mio lapsus, pensavo Mitt Romney, ho detto McCain, evidentemente non era possibile tra gli endorsement dei paesi, dei grossi paesi repubblicani, e riguardava una notizia del termometro. Torniamo invece ai messaggi che ci mandate al 349-238-6666 ed è interessante quella che fa un ascoltatore e la gira immediatamente a Antonio Taglia: che peso avevano comunque nel Parlamento gli eletti del fronte pandemocratico, che a questo punto credo in totale sono 19 mancanti, 19 tessere mancanti al Legislative Council. Sì, sono 19 tessere mancanti su un mini Parlamento che conta 70 parlamentari. Ovviamente parliamo di una minoranza, poi appunto il fronte pandemocratico non è di fatto, diciamo, l'unica opposizione. Esistono dei parlamentari che, pur non aderendo al fronte pandemocratico, possono votare contro la maggioranza pro Pechino. però non c'è dubbio, insomma, che adesso la maggioranza pro Pechino sia schiacciante e che la funzione dell'opposizione fosse, visti i numeri, appunto limitata, però appunto molto vitale, perché parliamo di un Parlamento nel quale si potevano paralizzare le norme appunto attraverso le tattiche di filibustering, sì, di boicottaggio. Sto vedendo le reazioni sulla televisione di Hong Kong. Per esempio Regina Hip, che è uno dei falchi della maggioranza pro Pechino ed è un personaggio molto interessante, se qualcuno degli ascoltatori ha visto il film Crazy Rich Asians sui paperoni, sui ricconi asiatici, ecco, Regina Hip appartiene esattamente a quella categoria, parliamo di aristocrazia, sì, di Hong Kong e del sud-est asiatico. Adesso sta dicendo i pandemocratici a questo punto hanno solo se stessi da incolpare, quindi sostanzialmente avete lasciato il Parlamento, non avete più voce in capitolo. La posizione dei pandemocratici dall'altro lato è: questo Parlamento che sottostà a un'intrusione così forte da parte di Pechino, di fatto è un Parlamento delegittimato. È una posizione che da un punto di vista di lotta politica può avere i suoi fondamenti. Sì. Poi, insomma, il campo pandemocratico sostiene che cercheranno di scrutinare le decisioni del Parlamento con altri mezzi. Bisogna vedere che cosa succederà, insomma, nei prossimi mesi. Di sicuro la presa sul Parlamento da parte dei pandemocratici è stata volontariamente abbandonata. Sì. E che cosa succederà dopo è, insomma, tutto da scrivere, ovviamente. Naturalmente Antonio Tella non ha la sfera di cristallo, benché buone entrature in quel mondo, lo ha vissuto e raccontato per lunghi 7 anni. Ricordo ancora quando facevamo i collegamenti anche da Hong Kong, era appunto il 2014. La voce di Wu Chi-wai è il presidente del Partito Democratico di Hong Kong, parlamentare, portavoce di tutto lo schieramento pandemocratico. A lui Antonio ha chiesto che cosa avete voluto ottenere con le dimissioni di massa dell'intera opposizione. Sentite cosa risponde. Con le dimissioni di massa abbiamo voluto denunciare ed esporre pubblicamente i misfatti del governo centrale di Pechino e anche del governo locale di Hong Kong. Con queste azioni hanno messo a repentaglio l'equilibrio tra i poteri a Hong Kong. La gente ha capito che adesso la situazione è completamente diversa rispetto al passato. Adesso che non siamo più all'interno del Legislative Council, di sicuro le leggi che il governo intende approvare avranno un iter legislativo più veloce, perché non c'è più un'opposizione. Da parte nostra troveremo altri metodi per scrutinare le decisioni del governo, ma adesso abbiamo messo a nudo il loro metodo. Terranno conto o no delle opinioni di tutti i cittadini? Perché in passato eravamo noi il canale formale attraverso il quale passavano le opinioni dei cittadini, ma adesso c'è solo la maggioranza. Quindi, se l'opinione pubblica sarà ascoltata o meno, ora dipende tutto dal governo. Se approveranno qualsiasi legge velocemente, bene, questo sarà l'effetto di non avere più un'opposizione al Legislative Council. Una figura preeminente, la voce che avete ascoltato è quella di Wu Chi-wai, presidente del Partito Democratico di Hong Kong. Per analizzare le sue parole ci soccorre Antonio Taglia, qui nel suo luogo è lontano. Però Antonio, ci sono tanti messaggi degli ascoltatori, provo a buttarti un po' di suggerimenti che arrivano sia via Facebook che al 349-238-6666. Per esempio uno molto interessante: le aziende europee quotate a Hong Kong come si stanno comportando dopo questa stretta di Pechino? Non voglio rubare il mestiere, ma ho come la sensazione che, come sottolineavamo all'inizio di questa puntata, in cui c'è un'elite economico-finanziaria a Hong Kong che assolutamente va a braccetto con Pechino e salvaguardare quella specialità di Hong Kong che è anche tanto apprezzata dagli europei e non solo, mi sembra che, voglio dire, non vi siano motivi di preoccupazione, o vedi qualche nube all'orizzonte anche per chi investe, magari è quotato, l'abbiamo sottolineato tante volte, la borsa di Hong Kong. Certo, allora le aziende europee stanno mantenendo un atteggiamento da business as usual. Trovo però che sia un atteggiamento un po' miope, perché un qualcosa che non è stato analizzato fino in fondo è la portata della nuova legge sulla sicurezza nazionale, che teoricamente può colpire chiunque si trovi sul territorio di Hong Kong. Un executive di un'azienda straniera che si vede improvvisamente privato di un sistema giudiziario che funziona secondo le leggi dello Stato di diritto, dovrebbe essere preoccupato, perché si rischia di essere sottoposti a un ingiusto processo, esattamente come avviene dall'altra parte del confine, esattamente come avviene in Cina. E questo è motivo di preoccupazione, lo ha ben sottolineato evidentemente Antonio Taglia, perché quando c'è compressione dei diritti, evidentemente la compressione dei diritti è per chiunque opera su quel territorio. Poi però c'è l'appello di Wu Chi-wai alla comunità internazionale, così mi ricollega un po' di sollecitazioni che arrivano sempre al 349-238-6666, ma la comunità internazionale cosa fa? Beh, sentite cosa chiede Wu Chi-wai, presidente del Partito Democratico di Hong Kong. Come dicevo, tutti i poteri adesso dipendono dal Chief Executive, ma tutti sappiamo che il Chief Executive di base è solo una marionetta manovrata dal governo centrale di Pechino, anche se sulla carta abbiamo ancora il principio un paese, due sistemi. La sostanza è cambiata completamente. Oggi a Hong Kong possiamo assistere alla discrezionalità nell'uso della forza da parte della polizia e alla scelta dei giudici operata direttamente dal governo. La Chief Executive Carrie Lam, nel perseguire la propria agenda politica, non tiene conto né della volontà né dell'interesse del popolo. Quindi a Hong Kong il principio un paese, due sistemi è stato abolito. La mia speranza è che la comunità internazionale mantenga alta l'attenzione su questa situazione, perché lo stato di diritto a Hong Kong si sta deteriorando. E questo comporta una violazione dei diritti umani e della stessa Basic Law. Insomma, la situazione sta peggiorando a vista d'occhio e spero che la comunità internazionale adotti un approccio completamente nuovo alla situazione di Hong Kong. E fino adesso pare che però, a parte il lato business evidentemente, che cerca sempre di prescindere da queste logiche, non vi sia stato una grandissima apertura da parte dei paesi della comunità internazionale, fatto salvo per Gran Bretagna, Regno Unito, lo dicevamo, l'Australia, il Canada e la Germania, che si sono dette disponibili eventualmente a offrire rifugio, tra virgolette, a quei giovani dissidenti che volessero lasciare Hong Kong. Anche Taiwan in questo senso si era pronunciata, ma di lì mi avrebbe da dire che dal punto di vista, come dire, politico, sociale, emotivo, personale, si rischia di finire dalla padella nella brace, benché Taiwan abbia al momento evidentemente una situazione molto diversa. Antonio Taglia, una domanda che forse è la domanda, però vediamo se riesci a rispondermi in uno slogan. Una delle caratteristiche del regime di Pechino è la pianificazione, lo sguardo lungo, lenta, accurata, calcolata pianificazione. Guarda sia al medio termine, ma non si preoccupa del breve termine, quindi le voci di critica, le voci della dissidenza, eventuali storture di naso da parte di qualcuno. Pianifica di fare qualcosa da qui a 50 anni e lo farà. Ecco, questo non può essere paradossalmente un vulnus per Xi Jinping. Prima arriva la botta del Covid, poi arriva un certo isolazionismo, poi un ripiegarsi anche sul proprio mercato interno. Funzionerà a vita questa strategia del lunghissimo termine? Allora, se il fine ultimo del governo di Pechino, del partito Stato, quindi del Partito Comunista Cinese, è di autoperpetuarsi al potere, l'unica via è cercare di stroncare questo tipo di opposizioni. È vero che negli ultimi mesi i consensi a livello internazionale stanno calando, e tutto quanto sul lunghissimo periodo forse potrebbe ritorcersi come un boomerang. Può essere un calcolo che sul lungo periodo non viene azzeccato. Sì, sì, e d'altra parte voglio dire, il lungo periodo proprio per quello, puoi pianificare finché vuoi, ma poi esistono i cosiddetti, ormai lessico abusato, i cigni neri che possono far virale le relazioni e anche i percorsi ampiamente pianificati. Grazie mille Antonio Taglia per essere stato con noi. Tra pochissimo, subito dopo il traffico, vi racconteremo una storia, lo faremo con un ospite, e una storia bella, anzi dovrei dire né bella né brutta, un po' come l'acqua che scorre nei nostri rubinetti. Nessun luogo è lontano. Sono alto 1,60 m, peso 45 kg, ho la faccia emaciata, sono come l'acqua che scorre in questo lavabo, né bella né brutta. E non so se è una storia bella o brutta quella che ci racconterà Gabriele Barbati, ma di sicuro è una storia interessante perché ha a che fare proprio con Pechino e ha a che fare col difficile, difficilissimo mestiere della dissidenza. Buongiorno Gabriele Barbati. Buongiorno a te Gianpaolo e a tutti gli ascoltatori. Giornalista, scrittore, ex corrispondente da Pechino, già come Antonio Taglia per vari media internazionali, ha pubblicato da poco Ho immensamente voluto, è un romanzo sulla dissidenza in Cina, edito da Funambolo, edizione. E è un romanzo sì, ma attinge alla lunga permanenza di Gabriele in territorio cinese. E racconti la storia, le storie di alcuni dissidenti. Che cosa significa essere controllati dal regime? Che cosa significa essere seguiti passo passo? Forse essere addirittura costretti nei propri desideri, nelle proprie voglie, nelle proprie aspirazioni? Significa essere progressivamente piegati in quel desiderio che si aveva di migliorare il paese, di aiutare i propri connazionali, i propri amici, i propri cari, a dover alla fine decidere tra te stesso, tra la tua persona, la tua famiglia e una situazione impossibile a cui ti ha costretto il governo, a cui ti ha costretto il partito, perché non soltanto nel caso della protagonista di questo libro, che sì, è una persona in carne ed ossa che oggi lavora da Hong Kong dove è dovuta scappare, e suo marito Hu Jia, che sta ancora a Pechino a denunciare questa situazione anche relativa ad Hong Kong da casa sua, alla fine hanno dovuto decidere di mettersi in salvo perché la situazione non era più sostenibile. La situazione di oggi in Cina, di cui state parlando, è l'estrema conseguenza di quello che c'era 10 anni fa. I fatti di cui si parla nel mio romanzo, 10 anni fa c'era ancora un po' di spazio per le persone, per gli attivisti, per anche le persone comuni che subivano degli abusi, di dire la propria, anche se andava contro il partito. Oggi non c'è più questo spazio, gli attivisti di 10 anni fa sono tutti in carcere all'estero, negli Stati Uniti, in Germania, a Hong Kong, gli attivisti di oggi, anche semplicemente studenti, attivisti per i diritti del lavoro, sono tutti presi alla prima comunicazione, alla prima dichiarazione contro il governo. Il paradosso che ci racconta Gabriele Barbati, giornalista e scrittore, autore di Ho immensamente voluto, Funambolo Edizioni, un romanzo proprio sulla dissidenza in Cina, è fra gli altri che la protagonista del suo romanzo si è rifugiata a Hong Kong, dove rischia sostanzialmente di vedere sfogliare le stesse pagine di storia recente cinese che ha vissuto nel mainland, perché Hong Kong si sta avviando evidentemente verso una pressione e repressione politica e sociale che la sta forzatamente avvicinando a quell'abbraccio del 2047. La domanda che facevo a Antonio Taglia, Gabriele Barbati, vorrei rivolgerla anche a te, perché questa scientifica, chirurgica lungimiranza e pianificazione da parte del regime di Pechino sembra ogni tanto scricchiolare. A causa di che cosa? Beh, dei cigni neri. Il Covid-19 ha messo in crisi anche la leadership, diciamo, mettiamo in tra mille virgolette, di Xi Jinping. Il comportamento, la reazione della piazza di Hong Kong ha fatto vacillare per un attimo Carrie Lam. Ecco, quanto può reggere questa pianificazione chirurgica di tutto ciò che avviene all'interno della Cina? Quali scossoni possono avvenire? Guarda, ovviamente non possiamo prevedere quello che accadrà, ma l'atteggiamento è evidente, l'atteggiamento autoritario di eliminazione di tutto quello che vada contro il monopolio del partito c'era anni fa, c'era 10 anni fa, c'era 5 anni fa, oggi c'è, ma ci sono anche gli strumenti che non c'erano 10 anni fa. Oggi il controllo che prima passava dalla polizia, che prima passava dall'omino di quartiere che guardava, adesso passa dagli occhi delle telecamere per strada, dai big data, dalla possibilità di individuare chiunque sia in un determinato posto in Cina in questo momento. Quindi è chiaro che con questi strumenti la sopravvivenza che il partito e che il presidente si garantisce probabilmente sarà molto più lunga di quella che si aveva, che avevano i suoi predecessori. E poi c'è un altro forse elemento da considerare, sì, che una volta ci si poteva ancora battere per la legalità, gli attivisti di Xinjiang, Hujia, si battevano per la legalità perché potevano ancora puntare su una costituzione cinese che diceva i cittadini hanno libertà di espressione, hanno libertà di associazione. Questi articoli ci sono, ma nel frattempo la Cina ha cambiato la Costituzione e in una maniera così arrogante come queste leggi che vengono imposte a Hong Kong. Nell'articolo 1 della Costituzione, cambiato 2 anni fa, non so, si dice che la base del sistema socialista cinese sarà il Partito Comunista per ribellarsi al Partito Comunista essenzialmente un crimine. Quindi sì, si può sempre dire la carta, la Costituzione era carta straccia già prima, ma adesso c'è un atteggiamento completamente arrogante di onnipotenza che ti fa vedere quanto alla lunga crede di poter sopravvivere questo partito. E questa è la previsione e anche l'amara constatazione di Gabriele Barbati, lo ricordo, giornalista e scrittore, ex corrispondente da Pechino per vari media internazionali. Il titolo del libro, me lo chiede qualche ascoltatore, ho immensamente voluto, è un romanzo sì, ma sostanzialmente è tutto vero ed è sulla dissidenza in Cina. Funambola Edizioni, intanto grazie mille Gabriele Barbati per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Arrivederci a voi. Ci sono tanti messaggi al 349-238-6666, uno in particolare chiede il ruolo della popolazione cinese all'estero. Io forse addirittura affinerei un po' la domanda, mi permetto, gentile ascoltatore, il ruolo della dissidenza cinese all'estero, perché la più raffinata produzione letteraria cinese di cui possiamo godere, o anche artistica, beh, sono tutte persone che alla fine hanno dovuto lasciare Pechino, perché a un certo punto, quando la loro voce si levava, scusatemi troppo, evidentemente creava qualche problemino. Siamo quasi alla fine e siccome nessun luogo è lontano, io vi do appuntamento a domani e noi continueremo a raccontare. E grazie mille a voi tutti per essere stati all'ascolto, grazie mille a tutta la squadra, l'appuntamento è domani ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.